lo che io va. Il mio amore è black, nero come Antimax. Sta vita mi vuole dead, nelle barre sputo facts. Ma l'Italia pensa ad altro, ti senti stretto se sei come me. Innamorata dei cash, e finisco un altro check. Fatto di perk, tutta sta gente si spera che perda. Con le shop pezzo, il mio quartiere è diverso. Mo vedo un mostro se guarda allo specchio. E se facesse una finta di gesso, succhia la minchia, puoi far solo quello. Sono passata al prossimo livello. Tu sei passata ma ora non va meglio. Va solo peggio, ma con il cazzo ritornerò indietro. Tutta la notte giravo col freddo. Io sono freddo perciò non mi fido. Ora un milione non mi fa più effetto. Fanculo parli mi dai per finito. Canti vittoria ma è un po' troppo presto. Prego perché ancora dentro all'arresto. Tu solo fumo ma poco arrosto. Io sono nato per questo. Problemi li porto dentro. I soldi rendono uomo ti sbagli. Puro un milione non ti fa le palle. Ora chi sono, non come il resto. E non ti lascio andare proprio adesso. Sto mondo è sporco e non è lo stesso. Sto mondo fotte, scrivo di getto, baby. Ai ai ai ai ai. Dimmi ciò che non so, ti dirò ciò che non sai, baby, yeah. Ai ai ai ai ai. Tocca mettere il nostro. Sto scappando dai guai, baby, yeah. Da solo fumo, da solo scrivo. Ne hanno tradito ma son selettivo. Sta gente fa schifo, la schivo. Un fallito mi chiama fallito. Come se è finito non prendiamo soste. Sta cannella stessa stanotte. Mi aumenta le pare di bugie già troppe. Non riesco a sognare pensando alla morte. Sta vita si è corta, sto in completo cortex. Sono ritornato e mo voglio la coppa. Rinizia la giostra. E tu vedi il bello ma non i miei sbagli. Nemmeno i miei taggi. E qua non verranno a salvarci. Mo io strafatto in un party come più grandi. No no, ancora sveglio. La soluzione la invento alle strette. Ne prendo un'altra poi mi sento meglio. Ne ho prese troppe quindi ora son perso. Cosa ti perdi? Sa manco io lo capisco me stesso. Sento pressioni costanti ogni giorno. Baby per questo che ora non mi fermo. Dimmi ciò che non so, ti dirò ciò che non sai, baby, yeah. Ai ai ai ai ai. Tocca mettere il nos, sto scappando dai guai, baby, yeah.